pomeriggio al bar con gli amici a far progetti per il mare, sotto un cielo che quasi quasi viene voglia di volare, e ad un tratto è come se le mie scarpe si mettessero a ballare. Non lo so cos'è, ma ho la sensazione che soffia un vento caldo dentro di me. Notte di città e nemmeno